Giulio, sei tu? Sì, Marco, sì, sono io. Ciao Marco. Pensa, dallo stacco della portante, mi sembravi tu. Dallo stacco fa tlac, no, quel microfono lì fa quel coso lì. Sono entrato a salutare perché sto togliendo la pizza dal frigo, dai, stiamo mangiando, per mangiare, dai. Ci sentiamo più tardi, ok? Saluta a tutti quando sembra qualcuno. Ok Marco, d'accordo. A dopo, dai, ciao. Come sempre ho detto, saluta a tutti se entra qualcuno. Perché siamo ai minimi termini, da? Ok, e se sono all'ascolto li saluto già da adesso. Se poi non hanno voglia di entrare, tanti saluto. Fruscia! buonasera, Marco. Ciao Tore, Tore lo squalo, da. Secondo round della pizza, prima è entrato Giulio, ho salutato. Ha sentito il tuo fischio, ti ho salutato, da, poi già sentivo più tardi se non mi addormento, da. E saluta Gio Maria quando entra. Ciao, a dopo. Okay, ciao Marco. Sessione Gio Maria! Ore. Siccome di tre, ore, eccoci. Ore, ecco. Aqui, giù. Aqui, tu sei. Aqui, se tu batti la culpa. Oh Marie! E chi è chi? Sì, cazza, bubù! Ehi, buonasera, signore! E allora? Ehi, cosa ti ha perso? C'era Graziano poc'anzi! Oh, è entrato! Bel Pierberri! Era a bordi già vedi, dice lui, rispondia! In PMR? Nessuno risponde in PMR, non sa che non c'è più nessuno in PMR. Allora, bisogna fare un po' più, non c'è più nessuno, non c'è più nessuno in PMR. Allora, da 27, siamo 27. Ha detto lo fa logo, in aperta di seguire i dati fastidi, lo fa logo, mi sono passati dei problemi, mi sono buchi grandi, stanno lavorando, poi dice che ha sempre ben di vista, così è mio attento. Sì, e allora? Se ne compra è nata la banca, ecco, l'hanno detto, basta poi su una daura, se è buono in atto, e se lo danno in atto. E così si ricordano ancora, Rosy. E allora? Sei giù bello. Dobbiamo morire a morire, a me sarà sobraivi a fare merca. Un giorno un messo fuori, no. E non morire a morire chivi. E ha detto se toccavano muri, si curavano ancora. Sì. Certo, io ne vorrei delle cose, anche se a buio. Bobo. Per carità, vabbè, ordini sono fatti tutti e di cosa vuoi fare, però non si deve lamentare, però si lamenta di sempre. E allora, si lamenta a Buru, peggio baete, è in PMR, già Ruggia che non vende ciò, se no si compare già un portatile. Sto pure in altro, non sarà mai a chi può, sarà mai qua pure in altro. No, a me ho preso un portatile, ci piglia un portatile di chi ci invede la 27. A portatile, era pure un portatile. Sì, ma il portatile è sempre in PMR, non è fase di rischio che non entra nessuno in chiesi quasi. Purtroppo è così, senti che non fa luogo, non vuol vedere niente di sopra la banca, che c'è più da farabbo, non fa luogo, cosa l'altro. Vabbè, ma che altro li sono cassandetti, mi non so come tanto fatto a cassandetti la mano. A distanza tosti, no, ma con me sente vero. A tutto il riposo, a chi lo vede io non ti riposo, a chi così, non ha già preso il baccardo me, così, proprio il baccardo. Allora, non ho già preso proprio me, avanti il culo, la carta, la boh. Sarà 27. La 27 è più pescata del Besiccio. In PMR non esca nessuno. Eia. Come sta uscendo sto? È un po' sei tipo nasino. Coso, è un po' a volte esci bene, a volte esci nasino. Perché secondo voi non è vicino. Vediamo un po', così è bene fa adesso. E così è più chiara. La voce è tua. Perché di solito me la avvicino troppo alla bocca, capito? Per certa volta magari un po' troppo cupa, capito? E ho provato a accendere i grandi oggi, vai. Oh, bene, funziona. Vabbè, te lo senti. Con quello dici? No, già sta facendo bene. Ho 4 watt però, Con 4 watt ho visto. Sì, sempre con 4 watt. La staccata per farlo a caldare un pochettino, l'ho pelato. Ma la voce un po' che torna a trattare un garage. Mi fa girare ogni tanto tutti quanti. So che mi sei fatto ingraziare. Sì, sei gettato e tu, già vedrò domani il 27. Vabbè, io mangio me stessi, no? Che, capito? Io mangio me stessi, se vuoi entrare non c'è che dà, se non mangio a te. Tu, Agisto, non ha preso Dio, Agisto, di chi tu è? Là lo sa che a entrare no, non c'entra guarni, io ce l'ho acceso, però non c'entra nessuno, non entra. Perché è meglio qua, va. Ci sbagliamo più e possiamo anche scrivere quanto vogliamo, va. Infatti, qua, almeno qua è più a cose, senti tutti quanti, sì. Eia. Quindi qua stiamo entrando nel PMR adesso. Senti, come sto? Nel PMR? Ehi. Tu eri? Giulio che... Giulio nel PMR, ehi. Mi posso... Solo è dove vuoi rispondere? Ma cosa ce l'hai? Io ce l'ho sempre acceso lì. Adesso faccio un paio di chiamate. Ma non mi interessa. Sì, va bene, intanto qua entrano anche da fuori, quindi la propagazione e le senti. Io mi stavo, ero quasi 2 ore con compito acceso e mi stavo guardando tutti i tipi di baracchini, anche i nuovi che sono usciti adesso, e me lo facevo vedere su video, capito, uno a uno, e me l'ho guardato tra Intec e coso e Ala, le misura una sessantina, l'ho attaccato le colonnine e il cartolino e me lo stavo ascoltando, pure l'italiano io stavo guardando poco fa nel computer, stavo guardando così, poi stavo ascoltando i cosi, stavo ascoltando nel computer i radioamatori. È uscito uno bello, il 485 dell'Inter, che è multicono, bello, bello. Lo stavo guardando perché lo stavo facendo col video, no? Lo spiegavo in italiano. È bello quell'apparecchietto, Sì, ce ne sono tanti belli. Ce ne sono tanti belli. Ce n'è uno dell'Inter che va in AM, FM e USB ed è omologato. Esatto, l'ho visto. E poi perché ce ne sono parecchi nuovi, Ce ne sono 5-6 di quei nuovi, anche con le bande, capito? Che ma costano un occhio? Costano un occhio, superano i 200. È chiaro che costano un po' di... Ma a guardare non si paga però, No, quello no. Hai manco un guiccio. Io cosa lo parlo? No. Non devo comprare niente tanto, ormai. A di comprare se di comprare, per cui già che è troppo. Da basta questi che abbiamo comprato adesso. Siamo tranquilli, 40 canali MFM, sarà che è troppo. Che deve fare? Boh, infatti, che ne pensi troppo? Questo è abbastanza meraviglioso da trattare, già andata pura, ho andato in macchina. L'ho visto. Anche quello ho visto, tutti e due i tipi, perché ce ne sono parecchi, però Regno Unito, non in Italia, ma Regno Unito ce ne sono un sacco. Ma la sorte lì che fanno fare troppo il trasporto. Infatti, lì è troppo il trasporto che fanno pagare. E poi non c'è nulla di italiano. No, è tutto scritto in inglese, che si dice che no. Mentre lì perché vanno anche le cose in italiano. Infatti, ma lì fanno pagare 15 euro di trasporto. 15, secondo me è anche 22, cazzo, ma quasi sì, che sono marchi. E non è meglio ordinarli in occhio dall'Italia, capiranno in Italia, così se li facendo in maga un po' garibbi. In Italia va, anche se è più caro, però almeno in Italia è per cui si arriva subito, poi almeno se esiste qualche cosa non stai a spedirlo fuori, eccetera, eccetera, perché in Italia va più bene. Infatti. Se richiede in Italia è buco. Ma io ce ne sono, è belli, però. Guarda la mappa di Rasina, cosa mi hai fatto? Per carità. Fare quattro, la già preso me. Pure a gestire il computer. Ha attaccato il computer. Vabbè, si incrociano i rossi. Se non fai nessuno. Se mi sembra che ho sentito a te, chiamano, non so, mi sembra che sei entrato prima, no? Sì, verso le 6:30 erano. Stavo chiamando, però ho visto che non hai risposto. C'è qualcosa, allora sono andato là. Stavo ascoltando e guardando. Perché mi sembra che ti ho sentito, ma eri impegnato e non ho potuto rispondere, capito? Sì, va su bene. Tanto. Hai fatto bene. Allora tra Bacchisio ci noi travaglielli. Bacchisio! Ieri sera a sera, ma oggi a quarto freddo, sei già meno un quarto. Se ne entrava male in bar, non entra più, visto. Non sta lavorando come ieri. Ma poco faticoso, visto che ho una persona che la vende. Adesso che stava facendo lavoro all'antenna, aggiungendo il cavo. Ecco, aggiungendo il cavo stava. Deve essere che stava il cavo in corto, boh. Allora ce l'ha fatta, sta continuando di fare allora. Ce la sentiremo domani. Manca Sarudda. Aspetta, signor Bacchisio. Fatti il colpo. Vuol dire che è impegnato, vai. È stato a casa ed è impegnato e non entra perfetto. Facciamolo fare, sennò sbaglia tutto. Sbaglia tutto. Ehi. Ma come ha ammazzo sentito stasera, Anche lui ha disaltato. Anche a Cosio, a Gianfranco, Oggi sono tutti in giro. Mi ha salutato stasera. È entrato, Antonino ha salutato. Mi ha detto di Sarudati. Marco. Quando mi ha sentito c'era anche lui, è entrato, ma Sarudati mi ha detto arrivederci che era Magnelli. Allora sta riposando adesso. Poi quando se ne alza si prende il gelato. la pistola, dopo si siede e si riposa. vabbè, se non è tempo di riposare. Insomma, loro hanno l'abitudine diversa dalla nostra per mangiare, allora hanno, lui a quest'ora magari sta riposando tranquillo, capito, nella poltrona, bello sdraiato, magari ci sarà anche la pirichella. Anche quello è bello. Allora, per carità, uscito sei oggi, sì? Ma da alleva addirittura, ma io me lo facevo in magazzino, stavo già fugliando, guarda, Mundelli, Novillè, pure il gruppo pressore, ho già attaccato un gruppo pressore, ho fatto bene la cosa, i posti, stavo pensando, miro là. Tanto per fare qualche cosa. Hai detto domani che cominciare un gallo. Ah, se fa, se fa caldo domani mattina faccio girare in bicicletta. E così è più bello. Adesso sono già 3-4 giorni che non la tocco, grazie. Ma visto che stamattina mi ha detto, però non mi porti fuori, faccio no che non ne ho voglia. Faccio vedere un po' quando faccio un po' bello, e mi dice sono su, faccio anche per ferma. Quanto l'ha detto la bicicletta? E allora? Che sta già, ferma, però. Infatti, la vedi si anda. Quando fa queste giornate così è meglio la sala tagliare due. Oh, è tanto così, chi la tocca? Oh, anche quando fa giornata, beh, certe giornate non le so nemmeno, no? È gamma gamma. So, oh, quando mi sento bene, che non c'è niente da fare, allora, già scendo magari, ma addio qua, e l'altro giorno sono andato troppo, cioè sceso lì davanti a Marfanna, lì alla rotonda, a Santa Maria Pisa, le sono gastato, e ha girato un bene, quasi un'oretta di giro, certo. E sicché ogni tanto già la sto, guarda. Sì, ha voglia. Bisogna fare ginnastica, tenere le gambe in funzione. Per forza. Però quando sta molto, molto così si fanno male le chiappe. A pensare sembra morbido, perché è bello affoderato, però so, sembra così, ma si fanno male le chiappe. Perché non si è abituato, ecco cosa è, non si è abituato a rimanere seduto in quel sedile. Per soltanto, mi sembrano 18 anni, ho 18 anni quando che non ho toccato più la bicicletta. A 18 anni non ho più toccato, avevo anche la bicicletta da corsa io, ne ho avuto 2 o 3, se non puoi immaginare. Da mura di grito girato, guarda, mi sono sputtanato il vento, quindi, e portavo, era andato macchato, non però io via. Lì c'avevo una ragazza, mi giro per guardare la ragazza, non mi sono capitato la sera, mi sono scusato da anni, non mi sono toccato la bicicletta. Sì, la vedda era, pazienza. Senta, fai più della bicicletta. Fai per il circuito, i cappottini. Sei già San Francesco a Favami, a Carlo Ruggi di Favami, da voi si già le Trieste e Umacati, andiamo a fare il circuito ieri, lui trampato, anche bigliato, guarda, però camminavo e poi siamo a fuori, eravamo una greffa, pensiamo allora, e a chi ha promesso non vira, questi che con la bicicletta. Allora camminava a filo, però a voi, la porta mi sono raggiunto, mi sono riuscito ad andare alla 600, che era parcheggiata, guarda, ho fatto la porcella, non ho avuto più gana di la bicicletta, con 30 anni sono. Sì, vabbè, quindi erano altri tempi, questi qua sono altri tempi. ho cominciato a pegarmi un bottolino, un olmo, avevo un 48 olmo, certo. La boira Guzzi, 125, e la bicicletta che la toccava più, la boira macchina, e via, e così via. Ah, ma tutta la gara do retta bicicletta, retta e caduta, ma tu sì, mi fammi di sbatti di bicicletta, lo fatto. Sì, adesso ho bisogno di tenere le gambe in movimento. E già piano piano a fare la cinta. Se la metà che c'è dei gatti. infatti tu c'è la pallice dei gatti. Allora, cazzi. Aspetta, signor Bacchisio, a disparare, non ha gana oggi, non ha gana. Boh! Infatti non ha gana oggi. Per carità, ragazzi. Cambiamo il macchinistico, ma si basta lui ragazza, mi mancherebbe. Fate bene di basarsi piano piano, ma ragionate anche da e arrivederci. Sì, davvero. Io sto. Sì, Giomarino. Ma so che? Dice che è davvero. Non è Luca. Luca, non mi tocchi. Non è lui, no. Boh. Però voce mi pari a Ebbe. Allora mangiate basta fuori. Tu ti ingrassa un po' qui. Ah, te l'ho mangiato. Deve diventare grande, deve diventare ancora giovane lui. Non è Luca, però. Vediamo tutti sì. Ha aggiunto mai questo capo, sì o no? Grazie al signor Bacchisio. Signor Toro, non lascia la Figaro. Senza ferri, avanti. Oi, signor Bacchisio, buonasera. Abbi senti. Sai com'è questa cosa che sei tutto dormire troppo stasera? Che gli ha comparato hai? Non ho capito ciò, Adesso se sei tutto amministrato. Addirittura, boh. Assessore mi senti bene, come mai mi senti male tu? Boh. Perché io tu questo problema nuovo, io. Se ce l'hai i quadrini tu, invece devi sotto il motore, tirali fuori. Otto, tu sei... Sei interprete, aiuto, ripeti. Non mi dici una roba da comprendere, ma se hai fatto comprendere bene. Adesso ha comprato uno nuovo. Ah, ma era mi sento così. No, adesso ha comprato uno nuovo, un altro. Ecco, Bacchi. Aspetta, signor Bacchisio. Che tutto cupo sei. Ah, io che mi sento bene, ma che fai che stai usando, che non ti capisco niente. Boh, ti mangio le parole, Bacchi. È lo stesso, è sempre lo stesso apparato. Lo sento, forse è lui come fa. Ma vabbè, là, a me si mettono giustamente. Io vi saluto, alle prossime, ok, ci sentiamo a domani, signor Bacchisio e signor Gio Maria. A domani. Ah, sta tirarci solo e tirarci. Io che paura è. Bacchi, guarda il parlatore che se ne sta andando. Sì, ciao Toro, buona serata, ciao per la signora, arrivederci domani se tu lo concili. Stanno pur bene, avanti Giovanni. Certo, mi raccomando, cerca di cenare bene stanotte. È tranquillo sempre. Ciao, buon primo, salutoni in casa. A domani se coincide, se Dio vuole. Ciao. Ciao. Allora, signor Bacchi, come sei così basso oggi? Sempre lo stesso punto, sempre la stessa cosa, lo stesso radio, tutto. Tutto uguale come ieri e la prigione. Santiagonove, sì, Sì, sono Santiagonove, la radio non è forte, ma ieri e gli altri giorni ti sentivo più bene, oggi mi sto... Ah, al momento non ti capisco, Sempre la stessa radio, sempre la stessa radio, l'ultimo che ho acquistato. sordo l'apparecchio mio, cazzo, perché anche se ti sentivo bene, è più forte anche oggi anche il segnale di basso, eh. Oggi c'è anche il segnale di basso, mi sembra che 9:10, 9:15 gli altri giorni, oggi sei dopo appena, eh. Sempre lo stesso, vabbè, dai, già riesco a capire ugualmente, dai, ma riesco a capire abbastanza bene, dai, e magari forse deve saltare, dopo magari è più chiara la radio, boh, vediamo un po', e intanto se già le 8 mi sembra che tiriamo a Bacchì, dai, a domani, adesso ci andiamo a cenare, per cui... E siamo stanchi dal lavoro, specialmente tu che li campagna oggi, bobo. Sì, che chiudiamo Bacchì, vai, buon proseguimento in salata, saluto di casa e a domani, ok Bacchì. Giovanni, ricambiato tutto al 100%, anche da parte mia. Arrivederci domani su tutto coincide. Ok, buona serata ancora, Giovanni, la figlia più da più perché ora per voi di andare ciao, ciao Bacchì, ci sentiamo, buon proseguimento, vai, ciao, chiudo.